Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. E allora proprio da qua ripartiamo. All'alba di oggi è entrato, come dicevamo, nella seconda fase operativa l'accordo tra Unione Europea e Turchia per i migranti, scortati su traghetti dagli agenti dell'Agenzia Europea di Protezione delle Frontiere Frontex. Sono stati trasferiti fuori dai confini europei i primi immigrati che dal 20 marzo scorso erano stati trattenuti sulle isole greche. Contemporaneamente sono partiti i primi siriani verso l'Europa. Uno a uno l'accordo, ma probabilmente non sarà così al termine della prima giornata. Il commissario europeo all'immigrazione Avramopoulos è ad Ankara, ma anche a Bruxelles le difficoltà del primo giorno non le ha nascoste il portavoce della commissione Margatis Skinas. Per ogni ritorno di siriano verso la Turchia ci sarà un rientro verso l'Europa secondo gli accordi, ha ribadito, ma certo, ha aggiunto, lo sentite, oggi ci saranno delle discrepanze dei numeri, resta però questo il parametro e questo sarà rispettato. E allora i numeri proprio forniti da Bruxelles: tra le persone rinviate in Turchia oggi non c'è alcun richiedente asilo, mentre i ritorni di migranti illegali in Turchia avviati sono tutti volontari, dice Bruxelles, ovvero di persone che ritengono che presentare una domanda di asilo in Europa non sia la miglior strada per loro. Le operazioni di trasferimento comunque vanno avanti, sono iniziate prestissimo questa mattina e molti dei rimpatriati non sono siriani, però stando ai primi numeri. Questa mattina, prima dell'alba, 136 migranti sono stati imbarcati a Lesbo e 66 nella vicina isola di Chios e sono stati portati in Turchia tra pesanti misure di sicurezza e qualche protesta degli attivisti. Sono loro i primi migranti respinti nell'ambito dell'intesa. Per lo più si tratta di persone che provengono dal Bangladesh, dal Pakistan e dall'Iraq. Nessun siriano, ha assicurato Ankara. Contemporaneamente è atterrato ad Hannover in Germania il primo gruppo di 16 rifugiati siriani partiti dalla Turchia per essere ricollocato in Europa, rispettando così il meccanismo uno contro uno o migrante respinto contro o migrante ricollocato, che fa parte dell'accordo con la Turchia. Poiché Ankara promette che entro oggi 500 migranti verranno riportati in Turchia, però non è chiaro se l'equilibrio numerico previsto dall'accordo sia da intendersi in un periodo di tempo più lungo. Intanto il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, parlando a Berlino, ha detto che voler venire in Europa non è un atto di criminalità. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Se oggi le prime ripartenze sono dirette in Germania, domani si dirigeranno invece verso l'Olanda, ma poi saranno smistati nei paesi europei. E altri attendono sulle isole greche, dove tra l'altro, stando ai dati forniti da Atene, sono aumentate in maniera esponenziale negli ultimi giorni le richieste di asilo. Chi infatti ha fatto domanda non può rientrare tra i rinvii in Turchia fino a che la pratica non è conclusa. Michele Telaro, capo progetto Medici Senza Frontiere, è a Lesbo, lo ha intervistato Raffaella Calandra. A Lesbo i migranti sono molto spaesati, incerti, spaventati, perché non sanno che cosa succederà, soprattutto perché le autorità non hanno mai fornito delle informazioni chiare. Probabilmente verranno rimandati in Turchia alcune persone che non hanno chiesto l'asilo, pakistani o nordafricani. Questa incertezza si traduce anche in una agitazione? Sicuramente, da diversi giorni ci sono quotidianamente piccole manifestazioni, sit-in, crescono un po' le tensioni tra le diverse nazionalità. Fino ad oggi a Moria non sono stati veri incidenti, però appunto abbiamo visto cosa è successo a Chios, cosa è successo al Pireo, potremmo avere le stesse identiche situazioni che si potrebbero ripetere qui. Si ha un'idea anche delle cifre del primo gruppo? Le autorità, il messaggio era di 500 persone che saranno riferite in Turchia, le persone che hanno presentato domanda d'asilo, prima che possano essere rimandate in Turchia, la loro domanda deve essere esaminata e deve essere eventualmente considerata non ammissibile in Grecia, ma le persone che sono arrivate dopo il 20 marzo, la maggioranza oramai ha presentato domanda di asilo, ma il Servizio Nazionale di Asilo non ha ancora ripreso a lavorare da dopo il 20 marzo, perché la Grecia stava preparando una nuova legge, per cui nessuna di queste 3.000 persone, le loro domande d'asilo non sono ancora state esaminate, quindi ancora dichiarate inammissibili. E dicevamo dunque le difficoltà anche tecniche di questa prima giornata, ma tant'è, accordo tra Turchia ed Europa che con oggi è entrato nel vivo, allora continueremo a raccontarvelo. Nel frattempo vi ricordo questa sera alle 21 invece l'appuntamento con l'Europa con Hughes On. Ci fermiamo qui per ora, ancora un saluto, una buona giornata da Anna Migliorati. Europa 24. collaborazione con Euronet Plus.